Letture di Radio 24. Nei giorni scorsi, per la prima volta, gli studenti che studiano si sono ribellati contro gli studenti che frequentano l'università solo per protestare e per compiere violenze. È successo a Bologna dopo che un gruppo di antagonisti, per lo più appartenenti al collettivo universitario autonomo, aveva devastato la biblioteca della facoltà di lettere per protestare contro l'installazione di tornelli. Un provvedimento che era stato adottato per contrastare lo spaccio di droga e le continue violenze che avvenivano ormai regolarmente nei locali. Forse era agli spacciatori che si riferivano gli antagonisti quando hanno protestato al grido «La biblioteca è di tutti». Se queste persone passassero qui una sola mattinata, vi garantisco che cambierebbero idea al volo, dichiara una tirocinante che, come racconta Claudio Delfrate in un articolo pubblicato nei giorni scorsi sul Corriere della Sera, è diventata oggetto di minacce per aver reso pubblico quello che tutti sapevano. È successo anche questo. Un giorno un tizio si è masturbato davanti a una ragazza all'interno della biblioteca come se niente fosse. Lei è scappata fuori in lacrime mentre dentro scoppiava un pandemonio. Un'altra volta ho avvertito una ragazza che la stavano derubando. Sono stata inseguita e minacciata di botte. Storie di tutti i giorni negli spazi della biblioteca della Facoltà di Lettere a Bologna. Emilia Garuti, 22 anni, per aver reso pubblico quello che in tanti sapevano ma tacevano, è diventata subito bersaglio di dileggio e velate minacce. Nella sua pagina Facebook vengono depositate frasi e giudizi poco rassicuranti. Le ultime violenze sembrano aver compattato un fronte di studenti e personale universitario che ha deciso di dire basta. Una petizione in questo senso sul sito change.org ha raccolto in poche ore 6.500 adesioni e altri, dopo Emilia, hanno deciso di far sentire la loro voce. A dispetto di quanti, ad esempio la CGIL di Bologna o altre associazioni, hanno criticato l'intervento della polizia nei locali dell'università e altre misure di sicurezza. Ma se queste persone passassero qui una sola mattinata, vi garantisco che cambierebbero idea al volo. La biblioteca nel corso degli anni ha prolungato i suoi orari, prima oltre le 17, poi fino alle 24. Uno sforzo compiuto proprio per garantire a tutti la possibilità di studiare. Ma dal pomeriggio il personale se ne va, restano solo i custodi. E in quelle ore le stanze diventano terra di nessuno. O meglio, hanno cominciato a entrare i pancabestie e gli altri gruppi che stazionano nella piazza lì davanti, facendo i loro comodi. Da lì poi, per chi vuole dedicarsi ai libri, la situazione diventa insopportabile. I bagni vengono usati come luoghi di spaccio o per drogarsi, racconta Emilia. Più volte sono state trovate siringhe usate e i servizi sono rimasti chiusi per giorni. I borseggi e i furti sono all'ordine del giorno, i materiali della biblioteca danneggiati, persino i libri. E quando il rettorato decide di introdurre misure di controllo, ad esempio facendo arrivare guardie giurate, la situazione peggiora. Oltre ai pancabestie, racconta ancora la studentessa, sono comparsi i collettivi anarchici. Sono cominciate le occupazioni, le assemblee, le risse tra gruppi rivali. Minacce e insulti erano all'ordine del giorno. Un inferno. Anche noi studenti avremmo fatto a meno di vedere i poliziotti fare irruzione, confessa ancora Emilia. Ma al punto a cui eravamo giunti, che alternative c'erano? I collettivi ci dicono che deve essere garantito il diritto allo studio, ma loro sono i primi a negarcelo, impedendoci l'uso della biblioteca, spaccando tavoli e strappando i libri che altri hanno contribuito a pagare. Troppo comodo criticare i tornelli e le misure di sicurezza appellandosi a principi astratti. Calatevi nella realtà e poi ne riparliamo. Avete ascoltato alcuni passaggi dell'articolo di Claudio Delfrate, Io, bibliotecaria minacciata per aver denunciato droga e violenze in Ateneo, dal Corriere della Sera del 13 febbraio. Perché non praticare uno sconto sulle tasse agli studenti dell'Università di Bologna che entrano in biblioteca con la provocatoria intenzione di studiare, anziché per spacciare droga e fare i propri comodi, minacciando chi la pensa diversamente? Questo invece era il provocatorio suggerimento di Massimo Gramellini nel suo editoriale Sconto di civiltà, dal Corriere della Sera del 14 febbraio. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Letture di Radio 24. Ci sono manuali che accompagnano il turista alla scoperta dei luoghi d'arte, altri che tracciano percorsi enogastronomici, altri ancora che impostano il viaggio attorno a shopping e divertimenti. Quella scritta da Ezio Guaitamacchi, icona del giornalismo musicale, è invece una guida alla scoperta dei luoghi legati al rock. Un viaggio dagli Stati Uniti all'Inghilterra per sottolineare i legami tra gli artisti e le loro città, per ritrovare le tracce di località che sono strettamente intrecciate con la musica. Un atlante rock, pensato non solo per chi avrà la possibilità di ripercorrere quei luoghi, ma anche come viaggio emozionale per chi della musica vuole cercare le radici. Un giorno, mentre mi trovavo a Olympia, capitale del Washington State, nonché rinomata College Town nei pressi di Seattle, scrive Guaitamacchi nella prefazione, qualcuno mi disse: «Se vuoi capire la musica dei Nirvana, vai ad Aberdeen». Gli ho dato retta, ci sono andato e ho capito. E da quel momento, se mai ce ne fosse stato bisogno, mi sono definitivamente convinto che anche il viaggio rock ha le stesse caratteristiche di un viaggio, per così dire, normale. Se vuoi comprendere a fondo luoghi, culture, popolazioni, usi, costumi e musiche, devo conoscerli da vicino. Il libro propone 25 itinerari tra luoghi e rock. Ecco, ad esempio, cosa scrive Guaitamacchi a proposito di Chicago. Il suo nome deriva da una vecchia parola indiana, Chicacav, che significa cipolla selvatica, ma anche posto delle puzzole. Questo perché una volta il fiume che attraversava la città era ricco di una pianta endemica, una sorta di verdura bulbosa che emanava un odore acre molto intenso, simile per certi versi a quello che fuoriusciva dalle ciminiere della US Steel, per anni la più grande acciaieria al mondo. La sede si trovava a Gary, Indiana, a meno di mezz'ora da downtown Chicago, cittadina nata proprio a seguito della costruzione della gigantesca fabbrica, ma diventata celebre in tutto il mondo, quasi 60 anni dopo, come hometown di Michael Jackson e dei suoi fratelli. Infatti, prima che la Motown trovasse loro una più appropriata residenza a Los Angeles, gli 11 membri della famiglia Jackson, tra cui il patriarca Joe, ex pugile con la passione per la musica, che lavorava proprio alla US Steel, vivevano a Gary in una minuscola villetta con due grandi stanze. Ti bastava fare 5 passi per essere dall'altra parte della casa. Era grande più o meno come un garage, spiegava Michael. Dopo la morte del re del pop, l'abitazione 2003 Jackson Street, anche perché tutte le vie lì intorno prendono il nome della famiglia, è meta di fan e curiosi. Nel giardino di fronte, là dove Michael giocava da piccolo, c'è una targa in sua memoria. Oltre un secolo prima, e nel giro di soli 20 anni, da minuscolo avamposto militare, Chicago si era trasformata in un'importante crocevia di traffico, polo produttivo di rilievo e centro di commercio da fare invidia alla Grande Mela, grazie al canale artificiale Illinois e Michigan, completato nel 1849, che metteva in comunicazione i grandi laghi al fiume Mississippi e quindi al Golfo del Messico. Per questo motivo, nei primi anni del Novecento, la metropoli sulle rive del lago Michigan ha iniziato ad attrarre ampi flussi migratori provenienti dalla vecchia Europa, in particolare dall'Irlanda, per via della grande carestia che stava flagellando l'isola di Smeraldo. Qualche tempo dopo, Chicago è diventato un punto d'arrivo anche per gli afroamericani provenienti dagli stati del sud in cerca di un impiego. I neri avevano scelto di stabilirsi nel South Side, quartiere periferico a sud della città, proprio là dove prima di loro si erano insediati gli immigrati irlandesi. La convivenza, resa già difficile da abitudini di vita differenti, è presto diventata tesissima in seguito alla competizione per accaparrarsi i posti di lavoro, fino a degenerare in una vera e propria lotta che ha finito per lasciare sul campo morti e feriti. In breve tempo gli irlandesi se ne sono andati, lasciando il South Side in mano ai neri, che l'hanno fatto diventare una città nella città, in cui la gestione dei bisogni e dei divertimenti è stata appannaggio della gente di colore, che ha così avuto modo di sviluppare le proprie tradizioni musicali. Chicago è considerata la capitale del blues, ma è stata anche la città del jazz, del heavy metal e dell'hip hop. Tra i tanti gruppi nati nella Windy City, ce n'è uno che ha scelto di chiamarsi proprio come la loro città. Nonostante abbiano venduto oltre 100 milioni di dischi, i Chicago non hanno mai avuto lo stesso status degli altri grandi gruppi rock. Il gruppo, che festeggia quest'anno i 50 anni di attività, è stato spesso oggetto di disprezzo, ma più spesso ancora di indifferenza, da parte della critica, in quanto lontano da quell'immaginario, spesso un po' artificiale, da sempre associato ai divi del rock. Niente trasgressioni per i Chicago, niente droghe, niente volgarità, niente impegno politico, ma in compenso un grande affetto da parte del pubblico e, come sottolinea Guaitamacchi in queste righe, anche da parte dei colleghi. All'inizio erano un gruppo di studenti della DePaul University che aveva deciso di chiamarsi The Big Thing. Facevano rock con una sezione fiati potentissima, talmente forte che Jimi Hendrix una volta disse a uno dei fondatori del gruppo, il sassofonista Walter Paraseider: «Cavolo, i vostri fiati hanno 10 polmoni. E poi il chitarrista del gruppo è più bravo di me». Già, Terry Kett era uno strumentista formidabile, così come il bassista e cantante Peter Cetera. Di loro, oltre a Hendrix, si era accorto anche Jimmy Gersio, produttore californiano proveniente dalla scuola di Frank Zappa. Nel 1968 la band si era trasferita a Los Angeles, aveva firmato un contratto con la Columbia e cambiato nome. The Big Thing erano diventati Chicago Transit Authority, proprio come la compagnia di trasporti della loro città. Ma già dal secondo album il gruppo si era fatto chiamare semplicemente Chicago e in seguito firmava una serie di successi seconda soltanto a quella dei Beach Boys. Uno dei brani più famosi del gruppo è Saturday in the Park, del 1972, nel quale si cita anche una canzone italiana che nessuno è mai stato in grado di riconoscere, anche se la parola compare fa pensare che si trattasse di un brano dialettale diffuso tra gli immigrati provenienti dal sud Italia. Scrive Guaitamacchi. Anche se Robert Lamb l'ha scritta dopo una passeggiata il 4 luglio 1971, un sabato mattina, nel Central Park di New York, la canzone più famosa di Chicago non può non venire associata alla Windy City. Infatti, il pezzo apre tutte le partite di baseball della Wrigley Park. Spensierato. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi del libro di Ezio Guaitamacchi, Atlante Rock, viaggio nei luoghi della musica. Hoepli, 380 pagine, $29.90. friendship, a real celebration. Such a